Sono quasi le sette, il sole va giù ed il boia è già pronto per l'atteso sei tu. Sono le sette di sera ed il buio è sceso già a nascondere il senso di una vita che va. C'era tormenta quel giorno lassù, proprio ai confini di un cielo mai blu. Per una pepita lottammo finché mi ritrovai tutto l'oro ed un coltello dentro te, e a me rimase quell'oro assieme a troppi perché. Sono quasi le sette, il sole va giù ed il boia è già pronto, quello atteso sei tu. Sono le sette di sera ed il buio è sceso già a nascondere il senso di una vita che va. Nei miei pensieri non c'è chi lassù mi desideri certo nel suo cielo blu. Niente speranze ma un dubbio ora c'è, e tu boia all'inferno troverò proprio te, e prima o poi all'inferno scenderai assieme a me. Sono quasi le sette, il sole va giù ed il boia è già pronto, quello atteso sei tu. Sono le sette di sera ed il buio è sceso già a nascondere vita che va, a nascondere il senso di una vita che va, di una vita che va.